Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Adesso ci sono anch'io. Sì, adesso ritorniamo nei ranghi. Abbiamo parlato con Antonio Puglia di belle cose interessanti su Depeche Mode. Ci sono tanti fan di Depeche Mode in giro, fans. Moltissimi, 95 milioni di copie, non sono mica poche, assolutamente. Beh, buonasera da Agostino Spolaore, questa è la mia voce, questa sera con 30 minuti di ritardo rispetto agli altri consueti giovedì, ma ne valso la pena appunto per presentare questo libro. Ma adesso consentitemi di essere euforico, perché c'ho una, come dire, una delizia, una... Io gli voglio un bene dell'anima, lo sa, lei lo sa, ci conosciamo ormai da molto tempo ed è veramente una carissima persona per me, una carissima persona per questa emittente, una cara amica, ma soprattutto una grande artista. Si chiama Elodea. Ciao Elodea. Ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao Maurizio. Io sono particolarmente felice di averla qui, perché adesso lei ci racconterà in circa 60 minuti la sua grande, grandissima, immensa esperienza vissuta a New York. Lei ha partecipato a un concorso di cui la finale, la pre-finale, chiamiamolo così, si è svolta qui a Padova. Si chiamava Artisti per New York, organizzato dalla Flora Grassivaro, che è qui con me vicino. Ciao Flora. E poi anche dalla Susi Dal Gesso, che è qui vicino. Ciao Susi. Ciao a tutti. Ci siamo. Ci siamo tutti. Quella com'è là? Questa finale si è svolta di suo qui a Padova. La Susi ha pensato bene di chiamarmi, di mettermi in giuria, e quindi sono stato doppiamente onorato. Poi Elodea ha partecipato, ha vinto qui a Padova, è andata a fare il Festival della Musica Italiana a New York e udite udite ha vinto anche lì. Vedi, non mi accontento. Ha fatto un doppio colpo. Sì, è stata un'emozione grandissima. Sì. Allora. Sì. Raccontaci. Sei più emozionato di me, Agostino. Sì, perché rivederti dopo, ti ho visto la sera della finale qui a Padova, poi non ci siamo più. Ah no, ci siamo visti due sere dopo per l'intervista. Sì. Ecco, ma poi non sapevo da quando hai vinto il concorso, poi... Io le ultime notizie tue ce l'ho alle 6 della mattina, quando mi è arrivato l'SMS dell'America che avevi vinto. Esatto, perché ho fatto bene ad avvisarti, giusto? Certo. Sì, grazie. Allora, a parte di scherzi, allora, ci racconti questa tua grande esperienza, parti da dove vuoi, ma insomma raccontaci quello che hai vissuto a Padova, New York, insomma. Allora, parto da Padova perché, anzi, per chi non lo sapesse, tutto è iniziato, diciamo, grazie a te, Agostino. Mi ricordo la chiamata del primo giugno che mi hai chiesto se avevo voglia di partecipare a questo festival, e quindi ho fatto bene, ho pensato di provare a scrivere un pezzo, quindi se ho detto se mi piace lo presento, altrimenti no. Così è stato, ho scritto questo pezzo insieme a Giancarlo Prandelli in qualche giorno, l'ho presentato, quindi sono passata. E quindi il 21 agosto ero su quel palcoscenico ad Abano Terme e con grande stupore, diciamo, quindi per la prima volta ho cantato questo brano dal vivo e diciamo che mi ha emozionato tanto e credo che abbia emozionato anche tante altre persone, tra cui anche i miei genitori, quindi... Diciamo che è stata un'emozione molto molto forte che non sentivo da tanto tempo, quindi sono belle sensazioni queste. Sì, quindi poi appunto, non perché sono qui, ma le ringrazio tantissimo poi per l'organizzazione, per le persone splendide che sono, per l'atmosfera che si è creata quel giorno, che sono Flora e Susi, che poi comunque poi ci sentiamo tuttora e quindi anzi mi fa molto piacere averle ritrovate qui stasera. Io ti porto i saluti anche di Cli Beltrame, che ci sta ascoltando in treno. Fortissimamente. E poi anche dalla Claudia Bruni, che ha detto che anche lei ti salutava caramente. Un bacione anche a Claudia. E poi anche da Giulia Daici, che è stata qui la settimana scorsa. Un saluto anche a lei, a Giulia. Non la conosco, ma ci conosceremo, qui insomma. Ci conoscerete in qualche magari altro concorso, perché anche lei partecipa. Ricordiamo anzi che io mi sono scordato prima di dirlo, che Blu Radio Veneto è anche fiero di questo, perché ha partecipato come media partner a questo concorso e la Susi ci ha visto bene, insomma, se ci ha fatto parte in causa, ci ha fatto veramente molto, ma molto piacere, Susi. Piacere è stato nostro e volevo solo aggiungere che abbiamo fatto piangere tuo papà quella sera. Sì, è la prima volta che l'ho visto piangere, quindi per me è stato veramente una delle sere più emozionanti, credo, perché non l'ho mai visto piangere, poi averlo fatto piangere con una mia canzone, sensazioni indescrivibili. Bellissima cosa, direi, no? Susi, parla vicino al microfono, per cortesia. No, dico, è una bellissima cosa, direi, no? poi soprattutto avere due genitori che comunque seguono l'attività che tu fai, non è da tutti. No, infatti loro sono fantastici, a parte che c'è qui mia mamma che mi accompagna, quindi la saluto che è qui, e poi mi seguono sempre, quindi è una cosa che poi mi fanno notare anche altre persone. È bello quello che fanno loro, perché non fanno tutti, quindi a volte faccio delle serate, finisco tardi e loro sono sempre lì, quindi non mi danno fastidio assolutamente, anzi sono i miei primi sostenitori. Quindi la tua performance non è comunque influenzata dalla loro presenza, mentre magari altri artisti direbbero no stai a casa, che no anzi mi fa sì è vero, questo può generare emozione. Sì. E invece papà, no, e mamma, a me mi fa l'effetto contrario, mi dà molta carica. Ti dà carica. Sempre. Infatti quando non vengono un po' sono triste. Ecco, perfetto. Manca un pezzo. Sì. Il pezzo della Trinità, perché siete in treno voi, no? Cioè dopo hai anche una sorella, però. Anzi, saluto anche mia sorella che è a Parma, che mi sta ascoltando, però ci vediamo pochissimo. Ciao sister. Ciao sister. Ricordiamo invece, per chi vuole mandare qualche saluto a Elodea, vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo è il 346 23 20 033. Io ho davanti la visione di quel trofeo, una voglia di rubartelo, portarmelo a casa, che non ti dico. Ti faccio una fotocopia. Sì, grazie. È un po' difficile. È splendido. Allora, partiamo da quella volta, anzi continuiamo con quel palco dove eravamo, nel Queens. Quindi già per me era stato una sorpresa vincere qui a Padova, quindi diciamo che mi sono preparata per affrontare questo viaggio, andare appunto a New York, quindi sono arrivata lì il 23 settembre e diciamo che il primo giorno mi sono confrontata anche con gli altri partecipanti, quindi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto subito amicizia, ci siamo ascoltati un po' a vicenda. Che aria si respirava a New York? Ma molto tranquilla, sì. C'era molta adrenalina ma tranquillità, non c'era assolutamente nessun riscontro. Avete fatto amicizia subito fra di voi, insomma, praticamente. Sì, subito, quindi è stato anche molto bello. Il giorno della finale eravamo tutti molto contenti, ci facevamo, diciamo, sostegno l'un l'altro. Bene, una cosa positiva. Tecnicamente è una cosa diversa, cioè i concorsi americani hanno una tipologia diversa rispetto ai nostri, come impostazione, oppure è la stessa cosa? Ma essendo che comunque è stato organizzato da italo-americani, sì, quindi cambia poco, insomma, praticamente. Sì, cambia poco. L'unica cosa che diciamo magari sono le persone che sono sempre sorridenti. Ah, perfetto. Quindi se magari c'è un po' di tensione, però viene smorzata, diciamo, da questa solarità, diciamo. Bene. Bene, ottimo. Sì. Infatti mi diceva prima Elodea, finché stavamo cenando, che lei ha notato proprio questa cosa, cioè lei cantava e vedeva davanti a sé le persone sedute che sorridevano, sì, che ti incitavano a cantare, ti applaudivano. Se vieni qui magari sono ferme, magari. Questo teatro poi, se non mi ricordo male, teneva 2000 persone. Sì, 1500-2000 persone, quindi c'era veramente tanta gente. Io mi ricordo alcuni volti delle persone che avevo di fronte. Ecco questi sorrisi, difficile da trovare a volte. E quindi diciamo, allora siccome su quel palco mi sono esibita per prima, ho rotto il ghiaccio. E sei stata la prima in assoluto prima, a partire? Ho estratto io il numero di esibizione. Perfetto, è stato il tuo numero. Infatti ho detto, sarò prima, esatto, perfetto. Prima. E quindi è stato molto emozionante. Ero tranquilla, però comunque un po' di agitazione c'era. Ma serve, Giusy me lo può ribadire, se uno non è emozionato non è un artista, Giusy, cosa dici? Quando è sul palco deve essere emozionato, tendenzialmente emozionato, allora, però deve avere adrenalina sicuramente. Beh, ti devo dire che allora io non sono un artista. Ah, non sei mai emozionata, complimenti. No, sono estremamente, sai, sono un palco dall'età di 5 anni, per cui comunque per me rappresenta la mia esperienza di vita quotidiana. E quindi magari posso essere più emozionata a cantare per una persona che non per 30.000. Ah, non okay. So se anche Elodea succede questo. Sì, è vero, uguale. Però in quel momento io dico sempre questo. Sono nata per donare amore. Quindi se io mi metto in agitazione e non faccio lo scambio di cuore con gli ascoltatori o con l'audience, i fruitori del servizio, il mio scopo viene meno. Ho capito. Quindi cerco sempre di controllare questa cosa, e a parte l'Ariston, a parte Sanremo e a parte un'altra occasione in cui le gambe facevano Giacomo Giacomo, in tutti gli altri casi non c'è stato, c'è stato un controllo, certo, perfetto, certo, perfetto, cosa che deve essere da professione. Sì, sì, sì. Okay. Vi porto i saluti, qui arrivano, ovviamente. Vai, vai, dici. Allora, dici. C'è Doni l'enigmista. Mia sorella. Poi c'è Ermanno. Un bacione anche a lui, visto che mi segue sempre. E poi c'è la Patrizia da Milano che ti sta ascoltando. Oh, un caro saluto anche a lei, ecco. Grandissima. E poi, vabbè, la click ti ha di nuovo scritto in un papiro, sta ascoltando dal treno, eccetera, eccetera. Ciao Cristina. No, click. Cli? La Chiara Beltrame. Ah sì. La tua, diciamo, scusami. Quella che è arrivata dopo di te, seconda, insomma. Sì, sì, è vero. Che ti sta ascoltando, insomma. Allora, io direi, se tu sei d'accordo, vuoi ti facciamo fare un piccolo break e ascoltiamo la canzone, o puoi continuare il tuo racconto? Come vuoi. Scegli tu. Facciamo ascoltare il pezzo e poi continuiamo. Allora, ci dici come si chiama il pezzo? L'anima dei sogni. E com'è nata questa canzone? Poi non ce l'hai mai raccontata, oppure sì? Ma non mi ricordo. No, sì, l'avevo detto l'altra volta. È nato, diciamo, un giorno mi sono svegliata e non so perché mi sono sognata delle parole. E ho detto, i sogni. Ho detto, devo cercare di esprimere quello che per me rappresentano, ma che rappresentano anche per le altre persone. Quindi questo pezzo non parla prettamente di me, ma parla, diciamo che l'ho voluta scrivere e interpretare in un certo modo, anche grazie al mio produttore. Ho cercato di spiegargli un attimino che messaggio volevo diciamo dare. Esatto. Mi sto impappinando un attimo. È un'emozione? Sì, perché non ti ho mai vista emozionata, a parte quella sera qui a Padova. Sì. E quindi niente, l'abbiamo scritta in 2 o 3 giorni e via. E poi è andata. E poi è andata. L'ascoltiamo allora. L'anima dei sogni, la canzone che ha vinto il Festival della Musica Italiana a New York. Ci sono attimi in cui sai trovare la risposta giusta, come parte dei sogni che dimentico al mattino distesa sul cuscino. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. L'anima dei sogni americani, allora, praticamente. C'è un telefono, sì. Qualcuno c'ha un telefono. È il mio. Nascosto, stanno scondendo. Com'è a scuola? È il mio, Stavo leggendo dei messaggi, anzi, colgo per salutare una persona carissima di Roma, Andrea, un bacione. Ciao Andrea, ben sintonizzato. Io voglio subito svelare un segreto per chi ci sta ascoltando. Oddio. Lo svegliamo. La qui presente vincitrice, chiamiamola così, ci saluterà cantando L'anima dei sogni in diretta in versione acustica. Sì. Che è un regalo, unplugged. È unplugged. È un regalo che Eurodea fa ai suoi fans, ai suoi ascoltatori. A te, Maurizio. Certo. La dedico a tutte quelle persone che stanno ascoltando e a tutte quelle persone che hanno un sogno e che credono nei sogni. Bene. Ma ne parliamo adesso. Esatto. Dove eravamo arrivati? A New York, che ha fatto questo, che ha fatto la prima esecuzione, è stata la prima sul palco a salire ad eseguire questo pezzo. Poi, quando hai finito di eseguire questo pezzo, cosa hai pensato? Mentre gli altri, toccava il turno degli altri. Niente. Diciamo sollevata di averlo cantato, quindi tutta la tensione mi si è... Sì, si è abbassata praticamente. Esatto, ero molto contenta già di essere lì, quindi certo, per me era una soddisfazione innanzitutto. Cioè, seduta e aspettato che gli altri passassero? Seduta no, in realtà ero in giro che ascoltavo gli altri, anzi tenevo tranquilli anche gli altri cantanti, quindi... Come saremo, Susi, stessa cosa? Seduta no, perché comunque ti vivi quelle emozioni anche degli altri cantanti, quindi insomma. In quanti eravate nella finalissima? In dieci. 5 dall'Italia, 5 americani. Italo-americani. Sì. Certo. Bene. E poi? Ladies and gentlemen, hanno tirato fuori il... No, ci siamo esibiti tutti e 10, in giuria c'era Tony Dallara. Quindi ci hanno anche dato delle votazioni... diciamo più che altro simboliche, poi decideva lui alla fine. Quindi ci hanno richiamato sul palco con tutta la delegazione dell'associazione e hanno iniziato a dire il terzo classificato, secondo e poi il primo. Ho detto il mio nome, sono sbiancata direttamente. Ero un attimino in trance, non capivo quello che stava succedendo. Quindi mi hanno dato il premio, i fiori, foto e ho ricantato il pezzo. Chiaramente. Quindi ero un attimino poi invasa un po' da giornalisti, da tantissime persone che erano lì. Ricordiamo che è stata ripresa dalla Rai International. Sì, esatto, Rai International. E ricordiamo anche che è ancora in montaggio. È ancora in montaggio. Si vedrà prossimamente. Vabbè, insomma, quello sono cose che possono capitare senza commentare. Ah, Allora, e comunque è stata ripresa non solamente dalla Rai, magari anche da altre emittenti, forse o no? Qualche emittente radiofonica locale, americana? Sì, assolutamente. C'erano diverse radio, infatti poi il giorno dopo ho fatto un paio di interviste con una radio del New Jersey e una di New York. Ah, bene, sei andata là o... No, via telefonica, perché nel New Jersey ci vuole un attimo. New Jersey mi mette una cosa d'altro, il boss, assolutamente il boss. Ci sarei andata, ma per motivi organizzativi, certo, anche di tempo, l'ho fatta via telefonica, ero nel Central Park e ho fatto questa intervista. E cosa ti hanno chiesto praticamente? È più o meno le stesse cose, sei contenta di aver vinto, raccontaci del tuo brano, quindi le cose che si fanno di solito quando c'è un'intervista, esatto, a una vincitrice di un concorso, chiaramente. Insomma, questa è stata la tua favola, insomma, vissuta in maniera splendida, non te l'aspettavi quando sei partita, prima del concorso, dicevo io. Ah sì, assolutamente, perché poi io faccio le cose con una consapevolezza, nel senso che a me piace cantare, certo, e cerco di farlo sempre, nel miglior modo possibile, però come diceva anche Susi, di trasmettere quell'emozione che si sente. E quindi ho detto... Se si vince bene, se no comunque l'esperienza è stata fatta, conosci tante persone che hanno la tua stessa passione, quindi già andare a New York è stato veramente stupendo. Magari è banale, ma per me è stato veramente stupendo. E niente, quindi poi questa vittoria, anzi, è stata veramente per me molto molto soddisfacente, davvero. E quando ti hanno dato quel meraviglioso trofeo che ho qui davanti, cosa hai pensato, cosa hai detto? Cioè... Ma mi ricordo che l'ho preso, l'ho guardato e non capivo. Senti, ma è tanto pesante, perché sembra... Vuoi tenere? È un pochino sì. Allora, questa canzone, svicolando un po' il discorso del concorso Elodea, sì, ti serve da, come dire, da input per il prossimo disco, o è una canzone fine a se stessa, che è un singolo che tu hai messo in onda, in produzione, e basta, poi adesso farai un altro disco che non c'entra niente? Allora, adesso abbiamo fatto uscire questo singolo, quindi con questa canzone e con un'altra versione alternativa acustica. E poi io sto lavorando ad altre cose, però sui piani non si sanno ancora. Vedremo. Sei ancora un po' cambiato. Stiamo progettando, vediamo un po'. Lo sai che gli artisti non svegliano? No. Fa morire lui, che fa sempre le domande punzecchiate. Lo sai che gli artisti restano sempre un po' sul vago? Ti confesso una cosa, Maurizio è qui presente, può testimoniarlo. E una ventina di giorni fa più o meno è venuta una cantante romagnola, se non sbaglio, la Lonetti, giusto? Sì. No, non era romagnola, era calabra. Ma però vive in Romagna, sia a Bologna. In Emilia Romagna. Dimmi. Avrà preso l'accento? Sì, ha preso l'accento, però l'ha preso bene, nonostante che non sia moltissimi anni che vive in Emilia. Io gli ho fatto una domanda che adesso farò comunque anche Elisabetta, e gli ho chiesto, ma e lei mi risponde: ma mi sembri Gigi Marzullo. Se faccio la domanda si risponde. Davvero? Quando lo imita Croza. Esattamente. La saluto caramente se ci sta ascoltando, perché lei è una splendida persona, veramente. Poi ha cantato benissimo quella sera. C'è una forza incredibile. Ha ripreso un pezzo degli Yu Mundi in una maniera strepitosa. Proprio una forza incredibile della natura, musicalmente parlando. Una persona che ama molto il folk. Ma ritornando a te, ti ha dato la vittoria a questo festival a New York, ti ha aperto anche strade, cioè esibizioni in qualche parte d'Italia, così, oppure? Allora, sì, perché io poi quando sono tornata in Italia 3 giorni dopo la serata finale, e diciamo che sono stata un attimino invasa da comunque persone che mi seguono da tanto tempo, persone nuove, e poi interviste sia nelle radio, in TV, nei giornali, quindi ho fatto anche delle interviste con radio di Roma e della Sicilia, e quindi sì, sono stata un attimino sbalzata un attimo, però è stato bello comunque. Sì, ho iniziato, appena sono tornato, ho fatto dei vari appuntamenti live sia in radio che in alcuni locali di Brescia. E niente. È stato molto positivo, cioè la vittoria è stata importantissima, è stata positiva perché ha cominciato a allargare sempre di più la tua popolarità. Quello sì. Devo essere sincera, sì, perché comunque poi parlando il festival di New York, sempre poi New York è intesa la città dei sogni. Certo. E quindi diciamo che portare questa canzone là è stata... anche la città della musica, Susi, cosa mi dici? Sì. Perfettamente. Sì. Poi tanti poi partono per andare... Londra in Europa e New York nel mondo. Sognando l'America. Beh, diciamo che la tendenza musicale viene da New York e da Londra. È vero, sì. Quindi sono i due poli che attirano. Dopo, devo dire, per la musica sudamericana, cubana, latina, Miami. Ah, ok, sì. E anche per certe cose della house e movimenti vari, dance. A distanza di tempo tu resti sempre comunque piena di messaggi. Anche io mi ricordo l'altra volta che sei venuta, hai ricevuto un sacco di SMS. E mi fa piacere. Non so se io mi ricordo veramente la prima volta che ti abbiamo ascoltato qui in radio, hai veramente ricevuto moltissimi SMS che stanno arrivando anche adesso. Allora, questo dice: vai Elodea, alla fine i sogni si realizzano, vai alla grande. Elena Chirulli, un abbraccio a Flora e Susi. Oh, grazie Elenina cara. Visto che c'è qua anche la Flora, possiamo dire qualcosa anche alla Flora. Mia figlia che mi ha dato il messaggio voleva salutare Elodea perché ha seguito da dietro le quinte la nostra manifestazione, e le è piaciuta molto. A me è piaciuta molto Elodea perché è una ragazza grintosa e comunque anche molto umile. Lei sa che impegnandosi molto può fare molto, e questa canzone anche dei sogni, secondo me è una ragazza che può dare speranza anche agli altri con questa canzone, quindi mi piace anche l'attitudine che ha. Poi penso che abbia le carte in regola anche per vincere. Io comunque quella serata, vabbè, io sono stata catapultata in questo mondo musicale, non è il mio mondo, è il mondo di Susy. Io avevo quest'idea di gemellaggio tra la comunità italiana qua e la comunità italiana là come Federazione delle Donne. Per me è stato bello perché siamo riusciti anche a fare questo ponte. E musicalmente sono stata contenta per la direzione di Susy e per la vincita di Elodea. E poi mi hanno anche scritto dall'America gli organizzatori, quindi è stato anche, sì, abbiamo appurato che sono stati felici anche loro. È stato un po' un orgoglio veneto mandare questa cantante là a New York e vincere. Bene. Abbiamo avuto comunque anche un livello alto, sì, certo, e qualitativo, diciamo, dei partecipanti, e il tutto è stato fatto estremamente nella correttezza. Tanto è vero che le pregiurie erano divise in varie sezioni e dopo tutto preciso, perfetto, col presidente di giuria, controllato, perché non ci doveva essere nulla fuori posto. Ecco. È stata anche una bella soddisfazione da parte mia, diciamo, assieme agli altri quattro giurati, perché ci siamo trovati praticamente d'accordo subito, cioè non c'è stata una grande discussione, insomma, i voti più o meno erano tutti più o meno... Questo non avevi mica detto all'epoca, l'hai svelato adesso, l'hai svelato adesso, oggi di due mesi. Di novembre. Non si poteva svelare. Giovedì di novembre, 21:59. Non potevamo svelare. Lo so, insomma, l'ho detto. D'altronde i concorsi vanno fatti perché uno deve vincere. Questo è chiaro, chiarissimo. Ma è giusto, se no si farebbe... Ma è bello così che Agostino ha detto una cosa positiva, cioè erano tutti d'accordo. L'ha detto adesso, ma no, è una cosa più di là. Quello che voglio sottolineare, ci tengo veramente che sia sottolineato, è stata proprio la purezza del concorso. Cioè nessuno può dubitare assolutamente che ci siano state influenze o anche il fatto di amicizie o di rapporti magari un po' più conosciuti. No, assolutamente, è stato tutto alla luce del sole, non c'è stato assolutamente trucco inganno, come si dice, e questo è merito veramente di Flora e di Susy, che hanno fatto organizzato questo concorso in una maniera splendida, veramente ve lo dico di cuore. Grazie, assolutamente non poteva essere diversamente. Aspetta che qui arrivano ancora, allora ciao Elo, sei speciale, ti vogliamo bene, rendici ancora di più fieri di te, già siamo orgogliosi di te, un abbraccio grande grande grande da Bergamo e un bacio forte forte, grazie, ti vogliamo un bene dell'anima. Poi un altro ancora. Un carissimo saluto, un super abbraccione a Elodea. Volevo dirle che è una grande persona e la voglio tanto bene. Saluti a tutti. Ma chi è? Questo è Emanuele. Ah, un bacione Emanuele. Ma così almeno li ringrazio. Certo. Qui veramente sei amata, insomma. Ti fa piacere. E mi fa piacere, sì, perché comunque... diciamo, non ho voluto tanto scrivere questo pezzo, però ho visto attorno a me tante persone a volte che si perdono e non hanno il coraggio di andare avanti. Io vivo la mia vita giorno per giorno, quindi cerco sempre di vivere la mia giornata al meglio, quando capita, perché a volte anche io ho la mia giornata, no, però cerco di farlo sempre. E quando a luglio, quando ho scritto questo pezzo, vedevo queste persone, diciamo, un po' affrante. Per me poi l'estate è sempre bella, sempre solare, e quindi diciamo che l'ho scritta anche attraverso le sensazioni delle altre persone. E quindi poi è uscito questo brano, che comunque lo dedico a tutti, perché può piacere oppure no, perché magari uno si può rispecchiare oppure no, però per me è una canzone molto positiva. Se qualcuno volesse acquistarlo questo disco, dove lo può trovare? Allora, su iTunes tranquillamente, c'è il mio sito, che è www.elodea.it, è visibile sia il video che tutti i vari link per acquistarlo. 99 centesimi. È proprio pochissimo. Sì, per uno che ha vinto un festival è proprio poco. Non si può mettere. Non si può. È carissimo, purtroppo i prezzi sono imposti da iTunes. Sì. Non c'è nulla da fare. Certo. Anche per chi come me ha la contrattualistica diretta con iTunes. Sono dei prezzi che sono imposti per leggi di mercato. Diciamo che si va a 1,20 euro, 1,30 euro, 1,50 euro, 1,60 euro, solo se è da Sanremo oppure se in vendita il video. Ho capito. Altrimenti il tarifario è quello, esatto. Là. Esattamente. Tu hai detto, Elodea, che hai messo, che hai lanciato questo singolo con una facciata, con un unplugged praticamente, con una versione acustica di questo pezzo. Sì, È una versione, abbiamo deciso di fare questa versione, mi è stata proposta appunto dal mio... Dal tuo produttore ha deciso, sì, di così? Come mai avete deciso? Interessante, secondo me è una cosa interessante la versione acustica. Adesso sto preparando la versione in inglese. Ah, wow. Okay. Per il mercato, sì, straniero. Sì, boh, mi ha detto, ma ti va di fare una versione acustica? Ho detto, proviamoci, vediamo come esce. Quindi proprio un arrangiamento totalmente differente. Diverso. Quindi con percussioni, contrabbasso e chitarra. Stop. E basta. Sì, proprio differente. Certo. Però almeno ti dà, diciamo, una visione diversa. È il lato B musicale tuo, praticamente, sì, può essere. Sì, sì, infatti. Cioè, ci sarà una preseguo del discorso, potrai mettere altri pezzi acustici di questo genere o solo una cosa che nasce là e muore là? No, anche perché l'ho già fatto anche nel mio vecchio disco, sì, nel senso che io poi li porto in giro in versione acustica. Certamente, in giro qua. E quindi questa volta si è deciso magari di registrarlo proprio. Quindi, però anche nel mio vecchio disco avevo fatto due versioni alternative, sì, di due brani. Perfetto. Okay. Vogliamo raccontare un po' la tua storia passata, come dire, esclusa la canzone che ha vinto. Cioè, da dove? Dalla tua storia musicale, ovviamente. Insomma. Diciamo che ho iniziato a cantare da piccolina. A 6 anni, mi ricordo, se si ricorda anche mia mamma, ero davanti alla televisione e guardavo la finale del Festival di Sanremo del 93 e c'era Laura Pausini che ha vinto. Ero inginocchiata a terra, incollata alla TV, e dicevo, mamma, io da grande faccio la cantante. Vedi, i ragazzi di oggi dovrebbero avere tutte le idee così chiare. Però no? Ho detto da grande, non da piccola. Quando sono grande, ho detto... E quindi sei ancora poi... giovanissima, sei ancora... Sì, però io ero una bambina... No, non ero timidissima da piccola, facevo tanti danni in giro. Poi andavo sempre in giro, cantavo con qualsiasi cosa, cioè... andavo già a cantare all'oratorio nelle varie feste, dovevo tirarmi giù dal palco perché io ero sempre lì. Sempre lì. Poi ho fatto dai 10 ai 16 anni ero timidissima, quasi avevo paura a uscire di casa, e diciamo che poi ho affrontato un periodo dove io balbettavo tantissimo e quindi cercavo di comunicare attraverso la musica. Quindi diciamo che ho iniziato a studiare canto anche per questo. Beh, tu lo sai che normalmente chi balbetta quando canta non balbetta più. Esatto. È una tecnica per aiutare a superare, perché in fondo è soltanto una forma emotiva. Infatti, quindi poi ho iniziato... delle persone molto sensibili, una bella cosa questa. Sì, e quindi diciamo che poi attraverso la musica ho superato anche questa timidezza, quindi lo scoglio che ho verso gli altri. Quindi, come diceva anche Susi, per me è meno faticoso, diciamo, cantare davanti a tante persone piuttosto che a 4-5. Sì, lei ricordiamo ha avuto un sacco di esperienze, ce l'hai raccontato nell'altra intervista che hai fatto qui. Sì. E se vuoi dirlo in due parole. Sì, allora diciamo ho fatto la corista per Michael Bolton nel concerto di Natale del 2007. Tanto per gradire. Nel 2009 diciamo che ho cantato al Forum di Assago durante una manifestazione prima dei Pooh, quindi anche lì c'erano 10.000 persone, un palco enorme. Mi dispiace, ma ho visto che non c'era. No, c'è un risvolto a questo, perché il dottor Agostino ha appena davanti in questo momento il disco nuovo dei Pooh. Ce l'ho qui, quello dal vivo, sicura. Quello è stato registrato ad Este l'anno scorso, qui, sì, no? Praticamente del grande tournée che hanno fatto, quest'anno. Quindi nell'estate di quest'anno, ed è entrato in classifica questo nuovo disco dei Pooh, è un disco dal vivo praticamente, e c'era parecchia gente anche là. 27 agosto 2011, ecco, una data storica. Poi è bellissima questa cosa di fare il disco live, certo, piacerebbe anche a me un giorno. Allora, qui ce n'è un altro, io te lo dice, grazie dell'avviso. Ah beh, questo è riferito a me. Allora, un abbraccione alla mitica Elodea, mi associo agli altri, siamo fieri di te, splendida voce e una splendida persona. Trasmetti tanta emozione e passione e grazie per questo, ti voglio bene, saluto tutti i presenti. Ileana. Oh, grazie, un bacione anche a lei. Ciao Ileana, un bacio. Pensati che mentre arrivano a lui, arrivano anche a me in contemporanea. Cioè, Susi mi sta scrivendo. Voi vi siete taggati col mio Facebook, quindi in contemporanea ecco, arrivano anche a me. Scrivono a lei e poi lei risponde. E io sto rispondendo a tutti in diretta. È fantastica, Susi. Susi, ce l'hai che te quello che è arrivato ultimo adesso? Sì, Amadori. Diglielo che è l'amicone. Leggilo tu allora. No, l'hai letto tu, letto perfettamente. No, ho letto. No, ma ce n'è un altro. È arrivato adesso. Ce n'è un altro. Aspetta, sì. Che aggiorno. Tutto in diretta, 22.07 Blu Radio Veneto. Non ce n'ho più. Non ce n'è più. No. Io ce l'ho. Allora, Elodea, sei fantastica. Spero di poter avere la possibilità di collaborare con te un giorno. Prendo l'occasione per salutare Ago, Susi, Flore e tutti coloro che collaborano. Grande Elodea, continua così. È il grande Davide. Te lo ricordi? Sì, un bacione Davide. Carissimo, carissimo. Veramente, una splendida persona. E anzi, è arrivato adesso. Colgo l'occasione per dirgli di portare avanti il suo sogno. Perché comunque ha negli occhi quella speranza che non si trova. Sì, è molto. Poi è giovanissimo, quindi dolcissimo. Dai, io parlo da donna, ormai potrei essere anche mamma. Ma io so che c'è qualcosa di nascosto fra di voi, vero? O mi sbaglio? Era qualcosa nato, c'era da fare una collaborazione? No, in realtà il cappello che li accomunava. Sì, vabbè. No. C'era una cover da fare tutti insieme a modi USA for Africa, insomma, We Are the World, una cosa. Dovremmo farla. Vabbè, insomma, ho svelato il segreto. Blu Radio Veneto, amici, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, con la voce di Agostino, la mia, e poi con quella di Maurizio Calzavara, per regalare a voi che avete assistito come noi, insomma, alla bellissima esperienza di Elodea vissuta a New York e non solo, anche qui a Padova, insomma, che ha vinto anche qui a Padova, e poi una splendida cantante, insomma, Elodea è grande, grande. Io vi ricordo ancora i nostri numeri telefonici, allora è lo 049 875 6423. E per quanto riguarda quello in studio, se invece volete mandare sms, che qui me lo continuano a chiedere, dico io? Sì, dillo tu. 346 23 20 33. Bravissima, grazie Susi. Li leggiamo in diretta. Susi ha una certa esperienza. Visto che ha una certa esperienza, visto che ha fatto le nostre sigle. È un'ottima esperienza, bisogna dirlo questa cosa. Dove eravamo rimasti con te? Stavo raccontando, esatto, i palchi, diciamo, quelli più grandi. Quelli più grandi, sì. Poi il festival show, visto il Veneto mi ha portato sempre, certo, fortuna. È lì che ti ho scoperto io, sai. Eh sì, l'anno scorso il festival show del 2010, quindi mi ha portato nelle grandi piazze del Veneto. Certo. Bello anche quello. Sì. Con... E c'ero anch'io. Ah sì? Eh sì. Mi conoscevi? No. No, io non ricordo... Anche perché comunque quando partecipi come artista sei sempre dietro e poi non è che segui tutti i partecipanti. Però c'ero anch'io in un paio di tappe come ospite. No, siccome non ci siamo incrociate, però... Cantando Allegria. Sì, bello. Fantastico. Vai, sì. vai, continua. Continua a raccontare. Ho perso il filo. No, stavo dicendo... Festival show. Del festival show del 2010, dove ho portato il mio primo brano. Che si intitola Ancora non c'è. Il primo brano che ho scritto ancora 2 anni fa. Che fa parte del disco. Sì, che fa parte del disco. Nel primo EP è uscito nel 2010 con 4 brani, sempre con la GN Records, e il disco di quest'anno, 2011, La Regola. Che sei venuta a presentare qui. Sì, esatto, versione acustica. Questo. Molto bello, direi. La potete trovare in podcast, ma tra qualche giorno magari quella trasmissione la mettiamo in... Perfetto, poi mettiamo il link. Sì, esatto, ti metto il link, quindi se qualcuno volesse ascoltare la prima volta che è venuta Elodea, quindi quando ci siamo conosciuti di persona, ma ci conoscevamo mai da tempo, io e lei, per telefono, e ha fatto 1 ora e mezza di musica e di raccontare la sua storia. Che non è niente, sì, è suonato, ha cantato e ha suonato, abbiamo sentito la musica sua dal vivo, unplugged, come si dice, visto che l'EP nuovo che hai fatto ha una versione unplugged, una versione acustica, quindi eri già esperta nelle versioni acustiche. Aveva detto sì che avevano 2 pezzi acustici nell'EP precedente, però come tu giustamente dobbiamo ribadirlo, fare un pezzo acustico non è semplice, ma è interessante e secondo me apre numerosi orizzonti. Susi, cosa ne pensi delle versioni acustiche? Ma io penso che... Tu che sei molto tecnologica. Quando studiavo composizione, a me dicevano sempre: se una melodia regge in versione acustica e la puoi poi trasformare nei vari generi, che ne so, jazz, R&B, rock, pop, tutto quello che vuoi, e regge sempre, allora vuol dire che la melodia è vincente. Perfetto, non è il contrario però, vero? Diciamo che se difficile. Uno parte con l'arrangiamento elettrico ed è solo una questione di arrangiamento, ma poi in sostanza la melodia non si mantiene, perché alla fine tu non è che sì, puoi ricordarti una linea di basso, certo, ad esempio, certo. Non so, Thriller, Michael Jackson, sì. No? La caratteristica è la linea di basso, no? Certo. Puoi ricordarti, però alla fine tu la mattina quando ti svegli, adesso io non mi faccio la barba, ma tu ti fai la barba sì. Allo specchio. Oggi stasera sono lunga, canti? Sì, effettivamente. Cosa canti? La melodia della certo. canzone. Se è questa vero. Melodia la fai in uno stile, poi la modifichi e vedi che comunque in qualsiasi stile regge, è la melodia vincente. Quindi la prova per vedere se regge a livello acustico, allora vuol dire che hai fatto un gran pezzo. Ecco, perfetto. Mamma che dolce che quando fai. Sì, le sa tutte. Le sa tutte, le sa tutte, le sa tutte. Infatti c'ho le cuffie, guarda, le sa tutte. Le cuffie adesso. Allora dicevi che poi hai fatto questo disco? Sì. Che poi tra l'altro tu sei rimasta famosa in questo ambiente, in questa intervista, per una caratteristica che forse qualcuno non avrà ascoltato, magari quella sera non lo sa, ma lei ha lanciato il disco in una maniera diversa da tutti quanti gli altri artisti. Ah sì, è vero. Come l'hai lanciato quel disco? Siccome sono anche un pochino matta, mi sono buttata da un aereo da 4500 metri col paracadute. Oh, sì sì, era proprio così. Questo non la sapevo. Sì, va bene. Ma io a sì. febbraio poi faceva un freddo e olè, mi sono buttata. Hai lanciato proprio. Cosa molto interessante. Posso chiedere che... com'è questo lancio? Guarda, è una delle cose più emozionanti che abbia mai provato. Ma non c'è paura del vuoto? Ma sai del... che io non avevo assolutamente paura. Tutti mi dicevano, ma tu sei matta. Ma io non avevo paura. Anche tua mamma, cosa dici tu? Ma è venuta anche a vedermi, è venuta sì. anche mia nonna a vedermi. Ah, perfetto. Allora. Ma fa, mamma, aiuto. No, no, no, ma io ero... E lei lo può confermare che ero tranquillissima. Dico, non è una cosa normale che una no. si lancia da 4500 metri. Così, ma comunque rifarò perché. Sì. Mi con il nuovo disco no, così. Perché è molto bello stare su tra le nuvole. Poi guarda, io concordo perché ci sono degli anni che prendo anche 800 aerei all'anno. Però mi piace stare lassù, che c'ho però lo blocco e mi protegge. Te sì. sei proprio pazza forte. Infatti non potrei mai. Infatti quando abbiamo letto io e Maurizio questa cosa è stato veramente strano sta cosa, no? Allora quando è venuta qui gliela abbiamo chiesto, proprio ce l'ha spiegata, insomma, con i tuoi amici. Senti cosa ti metto in sottofondo. Ah, grazie. E non sai che se io potessi vivere. La conosci questa canzone? No, no. Perdere i ricordi. Canzone che ho proposto per l'anno scorso per Sanremo. Ma non li hai persi però i ricordi, ce li hai ancora. No, no. Diciamo che questa canzone Perdere i ricordi è simbolica, nel senso che a volte per continuare la propria vita bisogna lasciare perdere certi ricordi, magari quelli che fanno più male. Però è molto simbolica la cosa, perché poi ogni ricordo ci appartiene, quindi ci fa crescere o comunque uscire da diverse situazioni. Non lo so, cosa pensa anche Susi di questa cosa? E tu hai detto una cosa molto interessante, che per una ragazza giovane è poco comune, nel senso che molte volte si tende sempre a vivere al passato. E ci si gode poco il presente, si tende sempre a soffrire per un qualcosa che ci ha lasciato una ferita lacerante, e anziché imparare a vivere il presente e vedere che magari le ferite servono anche per imparare, per evolvere, no? Quindi basta guardare questa cosa qui che continua a tenere accesa la fiammella e a farti male, vai avanti. È vero, il messaggio era proprio quello. E a proposito di Sanremo, visto che hai vinto a New York, si potrebbe aprire anche la prospettiva sanremese, cosa ne pensi? Ma chi lo sa? Bisogna tentare. La canzone è pronta. Hai già pronta la canzone, sì? Sì, vedremo. Chi lo sa, non dico niente adesso. È pronta, la canzone è pronta. Adesso per quest'anno è tardi. Beh, perché quest'anno sì, hanno già settembre. Fatto le selezioni, esattamente, il prossimo anno sarà. Infatti. Anche quest'anno lo ripete Morandi un'altra volta con una nuova, un nuovo sistema, con un nuovo lui ha detto un nuovo progetto. Ma non c'è più tempo per fare le iscrizioni? No, le iscrizioni. No, ah, no? No. No, entro settembre bisogna farle. Consegnare già tutto. Anzi, diciamo che i giochi sono già fatti. Sì, a settembre. Esattamente, sì. Sono già. Mi spiace svelare così popolarmente la questione, ma purtroppo, carissimo. È arrivato il nostro direttore artistico. È il nostro direttore artistico che è. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Sì, sì, dimmi Susi. Sono già fatti. Beh, insomma, ci sarà per il prossimo anno, dai. Ma infatti, non bisogna perdere mai la speranza. No, assolutamente. E poi lo tieni nel cassetto. Esatto, quando voglio apro. E poi l'aspettiamo qui, poi. Ah beh, certo, certo. Sanremo. Poi tu ci hai già provato una volta. Ma sì, ho la canzone, poi comunque, poi proponi il brano, però poi vedi. L'abbiamo pubblicato, poi si sente, quindi è quello poi che conta alla fine. Certo, certo. Essendo appoggiata da un'etichetta, quindi poi si può pubblicare e far ascoltare. Certo. Allora, una domanda me la devo fare, perché te la devo dimmela, fare. Dimmela. Chi è Elodea? Ma non me l'avevi già fatta. Sì, appunto, per quello te la rifaccio. Elodea, diciamo che è la parte artistica di me, essendo che è il mio nome d'arte, poi... E racchiude quella personalità che magari che esce, diciamo, magari quando canto, quando scrivo. È quella personalità, è un mondo che sto scoprendo anche io giorno per giorno. Certo, quello che ha detto Flora comunque prima è ha ragione. E mi fa piacere che lo pensi. È una persona veramente semplicissima e sensibilissima. Posso fare io una domanda, Elodea? Certo. Non la voglio fare alla Gigi Marzullo. No, non si risponda, non c'è neanche la telefonata dello psicologo in linea, quindi stiamo tranquilli. Neppure il pianoforte della signorina che dà il sottofondo. Volevo chiedere questo: che cosa sogna Elodea? Ossia, che tipo di artista si sente? Si sente un dono per gli altri? Si sente una comunicazione? Cioè, perché ognuno ha una sua mission, no? Allora, credo che ogni artista nel suo inner, nel suo interno, senta quello per cui è più predisposto. Cosa allora, che sogno ha Elodea di sé nel mondo artistico? Il mio sogno, allora, diciamo che prettamente io canto per gli altri, non tanto perché ho, diciamo, un'emozione forte dentro e cerco di trasmetterla sempre quando canto, quindi in ogni situazione che canti i miei brani oppure no, o cover, quindi certo. Cerco sempre di interpretarle nel mio modo. Che cosa sogno? diciamo che una parte del mio sogno in realtà si è già avverata, perché comunque cantare per me rappresenta tutto, e quindi poterlo fare adesso, avere l'occasione di cantare e vivere di questo, già io sono veramente, ma veramente tanto soddisfatta di me stessa. Poi non dimentico assolutamente tutte quelle persone che mi hanno aiutato e che hanno creduto in me. Fino a 2 anni fa pensavo sempre di non essere stata compresa, quindi un giorno ho detto: ce la farò ad esprimere quello che sento, a comunicare quello che io sento, quindi di emozionare gli altri. Poi vedo che tanta gente adesso mi scrive, mi viene a sentire, quindi mi dice quello che prova sentendomi, quindi per me è veramente non ho più parole. Sono soddisfatta, cosa devo dire? Una bella cosa. Quindi, sì. Stai vivendo un bel momento, insomma, è giusto, te lo stai sfruttando, insomma. Sì, però come ho detto, poi te lo sei meritato. Poi mi ha permesso anche di conoscere persone come voi. Grazie. Che assolutamente bastano anche dei piccoli pensieri. Grazie. Perché tu hai pensato a me quando mi hai chiamata, se vuoi iscriviti, tutta una catena, no? E penso che l'amore poi c'entri tanto in questo. Basta la sincerità, comunque, sai. Sì. Quello è la base, la quello sempre. E la sincerità, insomma. Maurizio, c'è qualcuno che ti consiglia che mentre fai la barba ti ascolti le canzoni di Elodea? Mi fa piacere, mi fa piacere, ma non mi ha visto praticamente. A proposito di, scrive, a proposito di melodie di barba, mi capita spesso di cantare e ascoltare le sue canzoni mentre me la faccio, quindi ti un consiglio. Sì, sono perfettamente d'accordo bello, con lui. Mi fa piacere, c'è chi le ascolta mentre pulisce casa, certo. Quindi è sempre bello, insomma. E questo è, per ribadire il concetto che diceva prima la Susi, se il pezzo entra immediatamente, si può sentire in qualsiasi momento della giornata. Esatto. Poi mi piace che qualcuno lo ascolti, che ascolti i miei brani mentre fa le cose più comuni. Certo. Quindi sono cose belle, insomma, diciamo, che tengo compagnia alle persone anche se non gli sono vicina fisicamente. Sì, sì, sì, chiaro. Un saluto da Stella. Stella Rossi ti sta ascoltando. Grazie, un bacio Stella. Mi stanno scrivendo qui su Facebook. Beh, io non li vedo più perché non sono collegati a me allora. Va bene, sono le 22:22, è passato veramente in maniera velocissima. Io un'ultima cosa te la devo chiedere, tui progetti futuri. Progetti futuri? Continuo a fare le mie serate dal vivo e quindi e continuo a scrivere altri brani. Adesso non c'è nulla di certo, però io continuo a scrivere e vedremo, altre canzoni in arrivo. Prossimo disco inutile che ti rastrappi la promessa, perché tanto so che mi dici di sì, me lo vieni a presentare. Assolutamente qui. Sì. Lo voglio in anteprima questa volta, va bene? Com'è? Lo voglio in anteprima questa in volta. In anteprima, assolutamente sì. Ci sono i testimoni. Va bene, cosa devo dire? Ricordiamo ancora i tuoi contatti, insomma, i tuoi link, i tuoi dati tecnici, come dico sì, io. Sì, allora, il mio sito che è www.elodea.it, da lì ci sono i vari collegamenti per la pagina Facebook, sia pagina fan che persone, che adesso non si capisce più Facebook. Certo. Elodea, Elodea Singer, mi trovate, mi potete scrivere, vi rispondo io. C'è anche il tuo numero di cellulare? No, anche perché sono sempre senza soldi, quindi ecco. Poi vabbè, chiedo scusa a chi non risponde. Ma scusami, le donne non lo devono mai dare questo numero di telefono, ma guarda che è una cosa sì, ma l'aveva già fatta sta domanda, hai come Marzullo. Come Marzullo. È l'aveva già fatto, recidivo. È recidivo. Recidivo. Non ricarico mai il cellulare, quindi scrivo o via mail o su Facebook, che sono più raggiungibile. Con me non succede questo, comunque. Allora, che dire? Beh, io credo di interpretare un po' il pensiero di tutti, insomma, a nome della musica italiana parlo, insomma. Credo un grazie sincero dovuto a te per la tua esperienza, ma soprattutto per la tua vittoria. Hai rappresentato l'Italia e hai vinto, quindi hai portato alto la nostra musica. Penso sia doveroso da parte nostra dirti un grazie. Ah, insomma. Poi ti dico una piccola cosa. Quando prima di salire sul palco ho pensato a voi comunque, tutte le grazie persone che c'erano a Padova. Grazie. Diciamo che vi ho sentito lì vicino a me. Grazie. Grazie, devi dirlo a Susi e a Flora che ti hanno organizzato. Noi ti abbiamo pensato e poi avevamo il tuo maledetto ritornello sempre. Sì, questo è vero. Era vedi allora che funziona. Era talmente incantante che c'era rimasto in testa, quindi penso ti possa ringraziare anche la casalinga. Anch'io faccio le pulizie. Beh, come no? Certamente. Tutti le facciamo, le faccio anch'io. Ragazzi, certo. Le faccio anch'io, quindi me le canto anch'io mentre pulisco. Allora, per chiudere questo discorso, ho cominciato un paio di mesi fa, praticamente, quando la Susi ci ha chiesto il nostro aiuto, la nostra partecipazione come media partner. Chiudendolo questa sera con la vittoria di Elodea, che è venuta a presentarcela qui, a raccontarcela, meglio dire, credo che Blu Radio Veneto dica veramente grazie di cuore anche lui a Elodea, a Susi, che hanno chiesto la partecipazione di questa nostra emittente. Siamo fieri e orgogliosi di averla avuta qui, di averla proposta, di averla chiesto di insomma di partecipare e di averla sentita, avuto la notizia, insomma, che ha vinto questo concorso. Un motivo d'orgoglio per noi, per questa nostra emittente. Elodea, sai che sei di casa quando vuoi, poi insomma non serve che te lo dica, perché tanto io grazie e te ci sentiamo sempre. E adesso però fai regalo a Maurizio, alla Susi, a Flora, a me, ad Alberto, alla mamma, al papà che ti sta ascoltando. A tutti quelli che stanno ascoltando. E a tutti i tuoi fans, che ne hai tantissimi. Ci regali allora questa canzone? Sì, ci proviamo. Ci fai ascoltare L'anima dei sogni in versione acustica, quindi la sentirete in diretta. Questo è un regalo che vi fa esclusivamente per voi qui a Blu Radio Veneto. Prima di salutarvi ti lascio quello che vuoi dire tu, se vuoi salutare, se vuoi dire qualcosa. Sì, volevo salutare tutte quelle persone che mi seguono e mi scrivono ogni giorno, perché comunque per un artista è sempre fondamentale l'appoggio delle altre persone. E ringrazio poi la mia etichetta, che è la GN Records, che mi segue sempre. E basta, dedico questo brano a tutti gli ascoltatori. Maurizio. Cosa devo dire? È stato positivo, è stato molto piacevole rivedere Elodea, è stato piacevole sentire le impressioni, le emozioni che si vive vincendo un concorso a New York, quindi è una cosa, penso, che ti ricorderai sempre nella tua vita. Assolutamente. Assolutamente. Io do l'appuntamento a giovedì prossimo, sì, con Dario Petucco, che ci viene da Marostica, ci viene a presentare il suo disco, i suoi dischi sono due. Certo, e noi dobbiamo dare l'appuntamento adesso ad Alberto Prisco, che partirà fra qualche minuto. È un appuntamento imperdibile, lunedì sera, ore 22.30, con Dan Pilot e Stefano Dainese alla conduzione e Agostino Spolavori in regia. Ecco, te pareva. Te pareva, esatto. Io ringrazio te Maurizio, grazie, e te Agostino, per avermi ospitata qua. Un abbraccio anche a Flora e a Susi. Grazie. Apro una piccola parentesi, poi chiudiamo. È la mamma di Rodea, sì, si chiama Ives. Conosce Andrea Gianessi, che è stato qui la settimana scorsa. Bene, salutiamo, bene. Sì, Andrea. Salutiamo Andrea, se per caso ci sta ascoltando, sono proprio amicissimi. Va bene, allora ci salutiamo, Elodea, grazie ancora, un bacione grande grande, un abbraccio da parte di grazie tutti noi. Grazie a voi. E ci ascoltiamo la canzone che ha vinto il concorso di New York, in versione acustica, ce la canta in diretta Elodea. Ci sono attimi in cui sai trovare la risposta giusta, come parte dei sogni che dimentico al mattino, distesa sul cuscino. Ci sono giorni in cui so trovare i miei problemi. Se chiudo gli occhi, aprirò la porta dei miei sogni che riflettono la realtà, che prima o poi succederà. Forza della fertilità che sboccerà nella mia felicità. L'anima dei sogni che si crea nell'universo dei tramonti è tutto chiaro e limpido, come una domanda che saprò risolvere nei miei pensieri. E non c'è ieri, ma la realtà non è mai stata più reale. L'anima dei sogni in quegli istanti non perderò, i miei ricordi tra le mani, senza scordare al mondo che non vedi e che non speri. Che prima o poi succederà, forza della fertilità che sboccerà nella mia felicità. L'anima dei sogni che si crea nell'universo dei tramonti è tutto chiaro e limpido, come una domanda che saprò risolvere nei miei pensieri. E non c'è ieri, ma la realtà non è mai stata più reale. L'anima dei sogni, sogni, l'anima dei sogni.